di festa che fuor del tempo irrompe, con aria e fiamme la giovinezza va, fiammone ardenti sul mare e sulle tombe, noi siamo le speranze della nuova età. l'alba spunta già, e se devi andar per le vie del mondo non cantar. Ogni studenti, caio soldati, lascia libre l'università. Ciao biondino, ci rivedremo un bel giorno. Addio biondona, ciao biondina, è giunta l'ora. Ciao biondina, un bacio ancora. Con ardor il goliardo va, senza mai esitar, combatterà. Ciao mio caro amor, presto torna vincitor. Battaglion, rompano il motor, sempre in alto i cuori tricolor. Vincere o morir, questo è l'avvenir della più gagliarda gioventù. Ciao biondino, ci rivedremo un bel giorno. Addio biondola, ciao biondina, è giunta l'ora. Ciao biondina, un bacio ancora. Orardo. Battaglioni, le duce battaglioni, nella morte creati per la vita, a primavera s'apre la partita, i continenti fanno fiamme e fior, per vincere ci vogliono i leoni, di Mussolini armati di valor. Battaglioni della morte, battaglioni della vita, ricomincia la partita, senza l'odio non c'è amor, pemme rossa, uguale sorte, ti occorrerò alla squadrista. La vittoria, luce l'ultimo re. invece che per nottano in cantina, tracciando bottiglie, succhiando pastiglie, domandola ai topi quando il tempo cambierà. April non giunge con vol di colombe, lancia dai cieli piogge di bombe, lancia siluri, fa colpi sicuri, e l'aprile d'Italia che gloria ci va. Cosa sconvolta dal basso dall'alto, tu non resisti al nostro assalto, malvagi Inghilterra, tu perdi la guerra, la nostra vittoria sul tuo capo fiera sta. Adesso vieni in centro, adesso vieni in centro, io ero pescatore, poi lo ricorderai. Adesso vieni in centro, adesso vieni in centro, in terra e in guerra, la tua vita mi ha pedo. Adesso vieni in centro, adesso vieni in centro, io ero di pescatore, poi lo ricorderai. Adesso vieni in centro, adesso vieni in centro, in terra e in guerra, la tua vita mi ha pedo. La flotta che muove da Capo Teulada, Olanda trova nell'Atlantico la strada. Su navi guerriere le nostre bandiere si spiegano al vento della santa libertà. Alza Inghilterra per ogni navetto, perdi una zanna, perdi un artiglio, non c'è rimedio, sei stretta d'assedio, è la fine d'Italia che morte ti va. Dovrai per giustizia, malvagi Inghilterra, lasciare Malta, abbandonare Gibilterra, dal cuore delle genti, di tre continenti, il nome d'Italia benedetta salirà. Adesso vieni in centro, adesso vieni in centro, io resto di pescatore, poi lo ricorderai. Adesso vieni in centro, adesso vieni in centro, in terra e in terra, la notizia mi ha detto. Adesso vieni in centro, adesso vieni in centro, io resto di pescatore, poi lo ricorderai. Adesso vieni in centro, adesso vieni in centro, in terra e in terra, la notizia mi ha detto. Con certezza di vittoria, e questo lo cose il sacco si scivola, vada, il nemico è al di là della strada. Parla piano, già t'hanno veduto, 21 anni la stessa mia classe, questo vedi è il mio primo bambino, e tu sei fidanzato a Berlino, e abitate alla Krausenstrasse. Se mia madre a quest'ora pensasse che ho trovato un amico vicino, camerati d'una guerra, camerati d'una sorte, chi divide pane e morte non si scioglie sulla terra. Camerati d'una guerra, camerati d'una sorte, chi divide pane e morte più nessuno scioglierà. Camerata Richard, 3 minuti, 2 minuti, 1 minuto si attacca, c'è il mio nome cucito alla giacca, pronti fuori che il cielo ci aiuti. Camerata Richard, come canta la mitraglia di quella piazzola, tieni a mente Salvetti Nicola, dico mezzo cannone 50. Oggi tutta la terra si schianta, ma noi due siamo un'anima sola, camerati d'una guerra, camerati d'una sorte, chi divide pane e morte non si scioglie sulla terra. Camerati d'una guerra, camerati d'una sorte, chi divide pane e morte più nessuno scioglierà. Camerati d'una guerra, camerati d'una sorte, chi divide pane e morte più nessuno scioglierà. Thank you. nuova gloria il cielo si è adornato, in alto il nostro intrepido soldato ha fatto il tricolore sventolar. Cante va, pace serena, sempre unito il nostro impero, marcerà sullo straniero la romana civiltà. E il santo intrepido più avanti andrà con la bandiera della santa libertà. Con l'oro e non col pezzo ha combattuto, insigne col nebriero si è alleato, ma il gesto d'un Savoia l'ha stroncato e il mare nostro lo sommergerà. Canterà faccetta nera per le strade dell'intero, marcerà tutto il negriero la romana di Milano. E con il treno più avanti andrà con la bandiera della santa libertà. Sol di Roma già si con li appare, e avanza il condottiero in nuova gloria, sul suo vessillo è scritta la vittoria, perché l'Italia la conquisterà. Tornerà faccetta nera